fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per questa sera, in questa serata Halloween, vi presento lui, il nostro Master Nick. Ciao Master Nick. Buonasera, buonasera DJ Gale, che è venuto a trovarci. Serata speciale di mercoledì 31 ottobre, notte di Halloween. Guarda, potremmo elencarli a uno, ma sono veramente tantissimi, non possiamo elencarli a uno. Se dovessimo dire 50 nomi, sicuramente li abbiamo tutti qui anche questa sera. Sì, sì. Io direi comunque che sono DJ Gale. Ciao ragazzi. Questa sera sono particolarmente affascinante, le donne mi vogliono tutte. E il bello è che quando ci si sente affascinante, nel momento in cui si cambia, ci si trasforma, e è il bello di, insomma, anche del cambiare, di essere sempre diversi, essere sempre nuovi. Sempre nuovi, sempre diversi, come capita ogni sera quel convento, a partire dal mercoledì ad arrivare fino alla domenica siamo sempre nuovi. Ma non vogliamo parlare del convento, vogliamo parlare di questa festa straordinaria che si chiama Halloween, e per il convento è un must, è 29esima edizione, stiamo preparando la 29esima edizione anche di Capodanno, ma siamo nella 29esima edizione anche di questa festa di Halloween straordinaria, anche perché la nostra location si presta veramente tanto, vero Master? Assolutamente sì, convento addobbato a festa, in questo caso potremmo anche dire addobbato a paura, perché insomma l'abbiamo trasformato in un cimitero, in un cimitero di un certo terrore, un po' spettrale, con candele in tutto in giro. Sì, sì, sì, è un cimitero selfie, nel senso che abbiamo allestito questo cimitero con questo fumo che aleggia, queste croci, questa bara. E devo dire che alcuni si sono veramente spaventati, alcune ragazze si sono veramente spaventate. Oddio, un cimitero, ma io c'ho paura! Ne ho sentite più di una con questa cosa qui, veramente incredibile, veramente incredibile. E poi sai che si spaventano anche a vedere me. Lo sai, lo sai. Anche d'altronde un losco figuro nero che si aggira quasi immobile nel locale, è normale. Chiunque fosse curioso di sapere come siamo addobbati, vestiti, truccati, come siamo agghingherati. Si può dire agghingherati? Si può dire agghingherati, anche perché oggi è tutto DJ permesso. Gale e Master Nick, se volete sapere come siamo noi, non farete altro che vedere sul nostro sito, nella pagina foto, e anche scaricando la nostra app Convento, vedete le fotografie che la nostra Anita ha scattato per voi. Non solamente a noi ovviamente, ma tutte le fotografie che sono state scattate della serata, della festa, del divertimento, del cibo, della buona musica, dell'atmosfera, degli addobbi di questo convento in questa festa di Halloween del 31 ottobre 2018, vero? E attenzione, perché stiamo parlando di una festa, ma una festa che non è ancora terminata, è l'una di notte, quindi ci sono più di due ore per ballare ancora insieme. Se per caso foste nei paraggi e ancora doveste decidere dove passare la nottata di Halloween, fate un salto qui, che il divertimento non manca, la buona musica pure, e tanta bella gente che vi aspetta e pronta a divertirsi insieme a noi e a voi. Halloween Convento 2018, pronti per 2019. Noi siamo avanti, perciò stavi già dicendo 2019, perché in verità possiamo parlare 30 secondi anche di quello che stiamo preparando per il nostro Capodanno 2019. È vero, stiamo preparando una grande festa, anzi, se non ti fa niente lo posso raccontare. Certo, io certo, anche perché ogni anno si aggiunge roba, quindi diventa difficile seguire le evoluzioni, sempre più grande, sempre più affascinante. Sì, il Capodanno 2019 anche quest'anno troverà innanzitutto tantissimo cibo, perché facciamo un cenone straordinario, perciò ci sono tre modalità d'ingresso: cenone, cenino e tavolo bar, e poi l'ingresso anche durante la notte, l'ingresso libero. E il cenone avrà un costo di 100 euro completo, di tutto, ci sarà tutto, ogni ben di Dio, e poi il cenino invece una cena ridotta, diciamo per gli under 30, nel senso che è tutto, certo, buffet nella zona galleria, nella zona un po' più loft del convento, e pertanto anche adatta a un pubblico magari con un po' meno esigenze di situazione di cena. E poi il tavolo bar per quelli che devono mantenere una dieta rigida, ferrea, e perciò dicono no la cena, no il cenone, no. E quelli avranno la possibilità di avere il loro tavolo bar con la torta, lo spumante, e faremo comunque serata. Ci saranno tre DJ che fanno musica, ci sarà il nostro immancabile, il nostro DJ leader Carlone, e poi ci sarà lui, Alex Angioletti DJ, ci sarà Rino Raffaele Raffi. Rino Raffi, ciao Rino Raffi, se sei in ascolto ti saluto, ciao ciao. Non posso dire anche a DJ Carlone e anche ad Alex Angioletti se sono in ascolto, perché in questo momento sono in console live qui al convento. E poi ci saranno tutte le nostre animazioni, la pasta della notte, 40 metri di buffet di dolci, arriveremo fino alle 6 della mattina e poi ancora tanto tanto tanto. Ma basta, i 30 secondi se ne sono andati abbondantemente. Devo dire una cosa, posso, Master Nick? Certo. Diciamo che in studio radio ci entro poche volte, ma vedo in questo momento che è bellissimo stare qui e da questo studio radio che controlla completamente la pista da ballo, è veramente molto bello. Si controlla la pista da ballo, si vede gente, si vede la gente che suona. Riusciamo a sentire anche cosa stanno ballando in questo momento i nostri amici? Assolutamente sì, facciamo saltiamo in pista, piccolo, saltiamo in pista, vediamo che succede. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quella! Che spettacolo, Master, Master! Eh sì. Direi che dopo questa chicca, questo inserto musicale della console del nostro DJ Carlone qui dalla piazzetta, abbiamo anche il nostro Master Nick dalla zona invece padronale. Riusciamo a collegarci anche con la zona padronale, Master? Assolutamente sì, andiamo a sentire che succede di là. Ah però, ci siamo, mi piace questa cosa qui, mi piace. Lamborghini, Pam Pam, per questa serata Halloween. E direi che su queste due chicche di collegamento dalle nostre due sale questa sera live, noi potremmo anche darci la rivederci, possiamo salutarci, che dici, Master? Assolutamente sì, anche perché dobbiamo fare spazio e dare modo a tanti ospiti mascherati di venire a trovarci e di passare qui per raccontarci qualcosa di loro e di bello mentre ci mandano baci. Se ce li manda lei, io sono molto molto contento che ce li mandi, noi rispondiamo con questo cuore spontaneo. Aspetta, spontaneo, molto spontaneo, vuole un cuoricino, vuole la foto, un cuoricino, vai, pronti, quella, eccoci qui, quella, quando vai, dicono vai, il vai, bello vai, della vai, diretta, il bello della diretta è questa, ciao Master Rick, eccoci ciao ascoltatore qui di Risto Radio Convento, anche per questa notte daremo spazio alla grande musica, ma intanto per raccontarsi e per raccontare la trasmissione in diretta di Master Nick continua, perché c'è altra gente che ha molto da raccontare in questo nostro Risto Radio. Ciao ragazzi di Gigale, vi saluto e vi lascio in compagnia del nostro Master Nick. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao ciao ciao, ciao. Buonanotte, ciao.